Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Porca puttana. Adesso che sono gay, non riesco a trovare un compagno. Compagno. E che cosa? Ti devo dar da fare. Ce la farò, ce la farò. Dai, come ce la farò? Bello lo voglio. Dritto, posto, con me devi vivere. Faremo 3-4 bambini. Pronto? Pronto? Ciao, io sono Katy, tu? Io sono Mario. Mario, come stai? Sto abbastanza bene, però, capito? Cosa? Io avevo bisogno anche di un ragazzo, non c'è un ragazzo tu? Io con un ragazzo? No, siccome io te lo dico su, mi sento donna anch'io, no? Ah, quindi vorresti un trans, magari. Un trans, se, anche la donna, però se c'è un amico insieme che può cambiare. Guarda, adesso chiedo al centralino se c'è il trans, ma penso di sì, però, eh. Dai, lo passo subito, aspetta. Dai, grazie amore, dai. Poi ti chiamo te, poi chiamo te. Mari, sì, dopo mi racconti, eh? Sì, ciao amore, sì. Morto da mamma. Sono Consuelo, con chi ho piacere di parlare. Ciao Consuela, sono Mario. Mario, benvenuto. Ci conosciamo? Senti, io ti ho detto che avevo bisogno di un ragazzo. Tu sei un uomo? Beh, aspetta. Io sono una trans. Ah, una trans. hai il coso? Amore. C'è il campanile, tu mi puoi soddisfare, vero? Tesoro, io sono bellissima, splendida donna con un magnifico c***o. Oh. Magnifico. E io sto, guardi, mi stai facendo impazzire. Già mi giri la testa. Le palle no, perché la testa sì. Oh, bene. Senti, non voglio che ti girino le palle. Senti un po', amore. Dimmi. Tu cosa fai? Fai tutto? Bello. Dai, fammi morire. Certo che ti faccio morire mentre ti bacio il collo. Non ti sto. Mi devi tirare la gamba, il piede. Tirami un po' il piede, sì. Ti devo tirare un piede? Sì, perché sento di più. Tirami il piede. Certo che te lo tiro il piede. Ecco, dai. Sì, ti sto tirando il piede, amore. Che c'ho l'unghia incarnita. Dai, forte, tiramo. Ti devo tirare il piede perché c'ho l'unghia incarnita? Sì, dai, perché. Bene. Mi sento tutta donna anch'io, dai. Tutta donna anche tu, ti senti? Sì. Senti, amore, tu come segatura, come vai? Come segatura? Sì. Che vuol dire come segatura? Diciamo, sai che prima si dicevano le non sai? Ah, le Tu con fai. Le sono bravissima. Tagli bene gli alberi. Ma tu mi devi spiegare. Io taglio benissimo gli alberi, ma che c'entra l'unghia incarnita, tesoro? Perché quando mi tirano i piedi si addrizza anche l'unghia incarnita. Si addrizza l'unghia incarnita? Sì, amore. Quando io ti struscio il addosso. Sì, amore, sono Mario, fatto così. Ma sei fatto così? Ma quante ce n'hai di unghie incarnite? Tutto dritto voglio vedere. Ti dico un centimetro e mezzo. Un centimetro e mezzo di unghia incarnita, amore. Sì, l'unghia però, eh. L'unghia. E com'è? Mi gira tu intorno al sedere. Ti gira intorno al sedere. Sì, e poi grida, fa anche il pappagallo. Qui, qui. C'è il pappagallo tu. Sì. Amore. Porca miseria. Amore mio. Sì. Io ti sposo stasera. No, ci sposiamo subito, non posso aspettare. Ti porto in Corea a fare le bomboniere. In Corea? Sai che se lì dice ho fama, era meglio che me ne stavi in Corea a fare le bomboniere. C'è una tonda vicino a me che mi tira anche le bone, hai capito? Amore mio, ma tu sei l'uomo dei miei sogni. Sì, cosa sogni tu la notte? Cioè. Io sogno Mario con tutte le unghie incarnite dritte. Tu c'hai il grillo? Sì. Io c'ho un pesce. Sotto pastrano c'è un tarlo, quanto no, ci metto per ammazzarlo? Io c'ho un pesce spado, però sai. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.